Il terzo anello, ad alta voce. Il richiamo della foresta di Jack London. Traduzione di Gianni Celati, introduzione di Roberto Galaverni. Sono Roberto Galaverni e vi parlo di Il richiamo della foresta di Jack London. Un libro che ha contribuito a sostanziare l'immaginario, a fondare l'immaginario di parecchie generazioni di ragazzi. Il libro uscì nel 1903, poco più di un secolo fa, ebbe subito un grandissimo e immediato successo e da quel momento generazioni e generazioni di giovani lo hanno letto e riletto e poi portato sempre con sé. Un elemento determinante, penso, della grandezza e della profondità con cui questo romanzo è entrato nell'immaginazione di tante generazioni è la sua ambientazione estrema. I grandi ghiacci del nord, l'Alaska, il Klondike, la corsa dell'oro, e quindi un'ambientazione estrema dove la vita è ridotta all'essenziale, non è più vita ma semmai lotta per la sopravvivenza, riduzione all'elementare. Non si parla più di vita ma di istinti primordiali, non più di sentimenti ma di pulsioni essenziali. E Il richiamo della foresta condivide questa ambientazione estrema con altri grandi romanzi della giovinezza. Pensiamo alla giungla di Kipling, alla steppa del Michele Strogoff o anche allo sconfinato oceano di Melville e di Moby Dick, perché proprio lo scenario diventa costitutivo di alcune metafore fondamentali e radicali del romanzo. Questo è un romanzo di formazione, parte dai territori soleggiati del sud-ovest degli Stati Uniti, da una grande tenuta dove Book regna sovrano, senza nessun problema di relazione col mondo, e attraverso un brusco scambio senza mediazioni finisce appunto in questi territori estremi del gelo e del ghiaccio. E ci sono grandissimi momenti che sono entrati appunto nell'immaginario dei lettori. L'uomo dal maglione rosso che fa sentire a Book per la prima volta la legge del bastone, l'uccisione della cagnetta Carly che viene sbranata dagli Husky, la slitta dei francesi impreparati a questa avventura nei ghiacci che precipita alla rottura appunto del ghiaccio nel fiume assieme a tutta la muta dei cani, l'incontro di Book e l'amore fulmineo per John Thornton e anche la scommessa della slitta in cui Book salva appunto John Thornton nella sua spedizione da una specie di bancarotta. E credo più importante di tutti il duello con Spitz, il colosso dal mantello candido, come lo chiama London, che è il capo della muta e che in una specie di grande mise en abîme del romanzo, di luogo privilegiato, quasi un duello viene preparato come farà poi Sergio Leone nei suoi film, nel silenzio, nell'estrema concentrazione delle percezioni, dove Book proprio impone se stesso e vince la sua lotta con l'esistenza e la lotta per la sua sopravvivenza. non leggeva i giornali. Altrimenti avrebbe saputo quale guaio stava bollendo in pentola. Non per lui soltanto, ma per tutti i cani d'una certa mole con forte muscolatura e caldo e lungo pelo, dallo stretto di Paget fino a San Diego. Giacché, annaspando nelle tenebre artiche, gli uomini avevano scovato un biondo metallo e linee marittime e compagnie di trasporti davano risonanza alla scoperta. Migliaia e migliaia di persone accorrevano verso le terre del nord. Questi uomini avevano bisogno di cani. E i cani di cui abbisognavano dovevano essere robusti, con forte muscolatura per sostenere le fatiche, e un folto pelo per proteggersi dal freddo. Viveva Buck in una grande casa nell'assolata valle di Santa Clara. Il posto era noto come residenza del giudice Miller. Discosta dalla strada, la casa era seminascosta tra gli alberi, attraverso i quali si poteva scorgere la grande e ombrosa veranda che correva attorno ai quattro lati. Vi si giungeva per viali ghiaiosi che si snodavano in una distesa di prati e sotto i rami intrecciati d'alti pioppi. Sul retro, poi, tutto prendeva dimensioni ancor più ampie che sul lato anteriore. C'erano grandi stalle, accudite da una dozzina di garzoni e stallieri, file di padiglioni per la servitù coperti di rampicanti e un'ordinata distesa di baracche, grandi pergolati, verdi pascoli, frutteti e cespugli di bacche a perdita d'occhio. C'era anche l'impianto per pompare acqua dal pozzo artesiano e la grande cisterna di cemento dove i figli del giudice si tuffavano al mattino e rinfrescavano nei caldi pomeriggi. E in tanto vasta dimora regnava Buck. Qui era nato e vissuto per i 4 anni della sua esistenza. C'erano altri cani, certo. In una proprietà del genere non potevano mancare altri cani. E tuttavia quelli non contavano. Andavano e venivano. Alloggiavano nei brulicanti canili oppure campavano oscuramente nei recessi della casa alla maniera di Toots, il cagnolino giapponese, o di Isabel, la cagnetta messicana senza pelo. Strane creature, che raramente mettevano naso fuori dalla porta o piede al suolo. D'altro canto c'erano anche i Fox Terrier, una ventina almeno. Sempre pronti a guaiolare spaventevoli minacce a Toots e Isabel. Non appena questi li osservavano dalle finestre protetti da una legione di cameriere armate di scope e strofinacci. Ma Buck non era un cane casalingo, e neppure cane da canile. Suo era l'intero regno. Si tuffava a nuotare nella cisterna o andava a caccia con i figli del giudice. Scortava Molly e Alice, le due figlie del giudice, nei loro peregrinaggi al tramonto e di buon'ora al mattino. Si sdraiava nelle sere d'inverno ai piedi del giudice, dinanzi al crepitante caminetto della biblioteca. Portava sulla schiena i nipotini del giudice o li faceva ruzzolare sull'erba, nonché sorvegliava i loro passi in fughe avventurose sino alla fontana davanti alle scuderie o perfino oltre, verso i recinti dei cavalli e i cespugli di bacche. Impettito avanzava tra i Fox Terrier, ignorando affatto Toots e Isabel, in quanto egli era il sovrano. Sovrano su tutto quanto strisciasse, zampettasse o volasse nella residenza del giudice Miller, esseri umani compresi. Suo padre, Elmo, un enorme San Bernardo, era stato l'inseparabile compagno del giudice, e Buck prometteva di seguirne le orme. Non era ugualmente grosso, pesava solo 140 libbre, in quanto a sua madre, Shep, era una cagna da pastore scozzese. 150 libbre, però, a cui si aggiungeva la dignità derivante da una comoda vita e dal rispetto di ognuno, che gli consentivano un adeguato portamento regale. Dacché era un cucciolo, e per i 4 anni della sua esistenza, aveva vissuto come un aristocratico soddisfatto, con notevole orgoglio di sé e anche un pizzico di egocentrismo, quale spesso si nota nei gentiluomini di campagna a causa della loro vita isolata. Ma aveva evitato di far la fine di un cane rammollito. La caccia e simili distrazioni all'aria aperta avevano tenuto lontano il grasso dal suo corpo e rafforzato i suoi muscoli. E l'amore per l'acqua era stato per lui, come per i popoli dediti alle fredde abluzioni, un tonico e una garanzia di salute. Tale era dunque la situazione del cane Buck nell'autunno del 1897, quando la scoperta dei giacimenti del Klondike prese a richiamare uomini da ogni angolo del mondo verso i ghiacci del nord. Ma Buck non leggeva i giornali e non aveva nozione che un aiutante del giardiniere, Manuel, potesse essere una compagnia poco raccomandabile. Manuel aveva una passione fatale. Gli piaceva giocare alla lotteria cinese. Nel dedicarsi a questo gioco d'azzardo, per di più, aveva una debolezza fatale, la fede in un sistema. Ciò rendeva più che certa la sua rovina. Infatti, per giocare un sistema, occorre molto denaro, mentre la paga di un aiuto giardiniere bastava a stento per sfamare una moglie e una prole numerosa. Nella memorabile sera del tradimento di Manuel, il giudice era ad una riunione dell'associazione viticoltori e i suoi ragazzi si occupavano dell'organizzazione di un circolo atletico. Nessuno vide Manuel e Buck passare attraverso i frutteti in quella che Buck immaginava fosse una semplice passeggiata. E ad eccezione di un individuo solitario, nessuno li vide poi giungere alla piccola stazione facoltativa nota col nome di College Park. Qui l'individuo si rivolse a Manuel e vi fu tra loro un tintinnar di monete. «Si impacchetta la merce prima di consegnarla», proferì l'individuo con tono brusco. Al che Manuel passò un pezzo di solida corda attorno al collo di Buck, a doppio giro sotto il collare. «Basta torcerla e lo soffochi finché vuoi», disse Manuel e con un grugnito assentì l'estraneo. Buck aveva accettato la corda con tranquilla dignità. Senza dubbio la cosa era insolita, ma egli aveva imparato a dar fiducia agli uomini di sua conoscenza, attribuendo loro una saggezza superiore alla sua. Quando però i capi della fune furono in mano all'estraneo, Buck ringhiò minacciosamente. Aveva soltanto manifestato disappunto nel suo orgoglio, immaginando che ciò equivalesse a un ordine. Invece, con sua sorpresa, la corda gli si strinse attorno al collo, togliendogli il fiato. Si scagliò furente d'un tratto contro l'uomo, che gli si fece incontro afferrandolo alla gola e ribaltandolo sul dorso con abile torsione. Inesorabilmente allora si strinse la corda, mentre Buck furibondo si dibatteva con la lingua penzolante e l'ampio torace che ansimava invano. Mai in vita sua era stato trattato in modo tanto ignobile e mai in vita sua s'era tanto adirato. Le forze però cominciavano a venirgli meno, gli occhi s'annebbiavano, e quando infine i due uomini segnalarono al treno di fermarsi e lo gettarono nel bagagliaio, egli era in stato di completa incoscienza. Riprendendo i sensi, vagamente s'accorse che la lingua gli doleva e che era sballottato in qualche genere di veicolo. Il rauco fischio della locomotiva ad un passaggio a livello gli fece comprendere dove si trovava. Troppi viaggi aveva compiuto assieme al giudice Miller perché la sensazione di viaggiare in un bagagliaio gli giungesse nuova. Aprì gli occhi e in essi si poteva leggere lo sdegno irrefrenabile d'un monarca rapito. Balzò l'uomo per ghermirlo alla gola, ma Buck fu più lesto. Gli addentò la mano e non lasciò la presa fin quando, soffocato di nuovo, non perse i sensi. «Eh sì, gli prendono degli attacchi», disse l'uomo celando la mano ferita al custode del bagagliaio che era accorso ai rumori di lotta. Lo porto a San Francisco per conto del capo. C'è un dottore di cani là, bravissimo, dice che riesce a curarli. Fu nel retrobottega di una taverna sul porto di San Francisco che l'uomo espresse in modo eloquente il suo parere su quella spedizione notturna. A me vengono soltanto $50, brontolava. Ma non lo rifarei per mille, uno sull'altro. Aveva la mano avvolta in un fazzoletto insanguinato e il pantalone destro strappato dal ginocchio al piede. Quanto si è preso l'altro tizio? 100, fu la risposta. Non ha voluto venirmi incontro neanche una palanca di meno. Che fa 150, calcolò il taverniere. E mi venga un accidente se non li vale. Il rapitore sciolse la fasciatura piena di sangue e si guardò la mano dilaniata. Se stavolta non mi prendo la rabbia, sarà perché il tuo destino è di finire sulla forca, disse ridendo il taverniere. Qua, dammi una mano prima di alzare i tacchi. Intontito, con un dolore insopportabile alla lingua e alla gola, e quasi strangolato a morte, Buck tentò di far fronte ai suoi guzzini, ma venne sbattuto al suolo e soffocato ripetutamente, finché i due non riuscirono a limare e levargli il grosso collare d'ottone che aveva al collo. La corda fu quindi tolta di mezzo, ed egli venne gettato in una cassa a forma di gabbia. Qui rimase, per il resto di quella notte tremenda, covando la sua ira e il suo orgoglio ferito. Non riusciva a comprendere cosa significasse tutto ciò. Cosa volevano da lui quegli strani uomini? Perché lo tenevano rinchiuso in quella stretta cassa? Senza saper perché, si sentiva oppresso dalla vaga sensazione di un'incombente sciagura. Varie volte nella notte balzò in piedi, udendo aprire la porta del retrobottega, aspettandosi di vedere il giudice o almeno i suoi figli. Vedeva invece ogni volta la faccia gonfia del taverniere spiarlo alla luce fioca di una candela. E ogni volta Buck stava per abbaiare di gioia, poi dalla gola tremante gli usciva un mugolio selvaggio. Il taverniere tuttavia lo lasciò in pace, e al mattino entrarono 4 uomini che sollevarono la cassa. Altri aguzzini, pensò Buck, dato che questi avevano un'aria cattiva ed erano sudici e stracciati. Si infuriò dunque contro di loro attraverso le sbarre. Quelli si limitarono a ridere e a tendergli un bastone che gli subito addentava fin quando non capì che era esattamente quel che volevano. Allora, invaso dalla malinconia, s'accucciò e non oppose resistenza, mentre la cassa veniva issata su un carro. Poi Buck e la cassa in cui era prigioniero cominciarono a passare di mano in mano. Se ne occuparono gli impiegati di una compagnia di trasporti. Egli venne trasferito da un carro a un altro, quindi un veicolo lo trasportò su un traghetto, assieme ad una quantità di scatole e pacchi. Dal traghetto venne scaricato in un grande deposito ferroviario e di lì, finalmente, affidato ad un vagone merci. Per 2 giorni e 2 notti quel vagone viaggiò, trascinato da una locomotiva col fischio stridulo. E per 2 giorni e 2 notti Buck non ebbe né da mangiare né da bere. Nel suo furore aveva risposto con latrati ai tentativi d'approccio degli spedizionieri, e costoro si erano vendicati facendogli dispetti. Quando si gettava contro le sbarre, fremendo con la bava alla bocca, quelli si mettevano a ridere e a mugolare. Guaiolavano e abbaiavano come cani spregevoli, miagolavano, sbattevano le braccia e facevano il verso del gallo. Tutto era molto stupido, Buck lo sapeva. Ma tanto più la sua dignità ne soffriva, sempre più aumentava il suo furore. Non badava molto alla fame, ma la mancanza d'acqua gli procurava un tremendo disagio e attizzava la sua collera fino ad accessi febbrili. Essendo egli infatti tesissimo e assai sensibile, i cattivi trattamenti l'avevano precipitato in uno stato febbricitante, alimentato dall'infiammazione alla gola e alla lingua gonfie e riarse. Di un'unica cosa era contento: che gli avessero tolto quella corda dal collo. La corda aveva dato loro un vantaggio sleale, ma ora non c'era più ed egli avrebbe mostrato con chi avevano a che fare. Mai più gli avrebbero messo un'altra corda al collo, su questo non aveva il minimo dubbio. non mangiò né bevve per 2 giorni e 2 notti. E la collera accumulata in quei 2 giorni e 2 notti di tormento non prometteva niente di buono a chi per primo gli si fosse parato davanti. Aveva gli occhi iniettati di sangue e s'era tramutato in uno stravolto demonio. Tanto era cambiato che il giudice stesso non l'avrebbe riconosciuto. Gli spedizionieri quindi tirarono un bel sospiro di sollievo quando lo scaricarono dal treno a Seattle. Francesco Siciliano ha letto Il richiamo della foresta di Jack London.